abbia fatto centro. Un test del DNA ha rivelato una perfetta coincidenza, al di là di ogni ragionevole dubbio, su una macchia di sangue che era lì e in 20 anni, dice il consulente, era la pistola fumante e nessuno, incredibilmente, l'ha notata. È stata ignorata questa traccia per 20 anni. Tra l'altro, su Repubblica, lo stesso Filippino, che si vede nelle foto invecchiato, ovviamente invecchiato di 20 anni, un po' più bolso nel viso, ha fatto 3 figli nel frattempo. Pensate che una delle figlie l'ha chiamata Alberica, proprio come la vittima. Fa pensare questo, poi ognuno pensi quello che vuole, però fa pensare. È stato portato dai carabinieri, è arrivato alla casa dell'Olgiata e ha detto: ma non sapete quanti ricordi, quante volte sono stato qui, che brutti ricordi, che brutti momenti, se ci ripenso. Poi però si è reso conto che era lì perché la sua posizione è passata da indagato e poi ad arrestato. Perché mi fate questo? Cosa ho fatto? Che sta succedendo? Si è fatto prelevare il DNA, gli hanno detto la prova è schiacciante e lui in lacrime: non mi ricordo, davvero, non mi ricordo proprio, non so perché il mio sangue è lì in quella stanza. Tace e piange, racconta Federica Angeli su Repubblica pagina 22. Certo, Vittorio Feltri si chiede in prima pagina di Libero: il DNA dopo 20 anni, che prova è? Vi lascio con questa domanda. Bruno Vespa alle 8:20 sarà nostro ospite per l'intervista, mentre il rimpasto di governo è il tema del sondaggio. Il giornale radio 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, le 8:20. Il protagonista della nostra intervista di oggi è Bruno Vespa, che saluto. Buongiorno, direttore. Buongiorno. Senta, allora, pare che il presidente della commissione di vigilanza Rai, Zavoli, abbia bloccato quegli emendamenti che tendevano a equiparare i talk show alle tribune elettorali e dunque col rischio di oscurarli per le elezioni. È una buona notizia, cioè pericolo scampato? Ma io sono stato sempre favorevole ad andare in onda e quindi evidentemente se si continua ad andare in onda sono felice. Naturalmente in campagna elettorale certe regole vanno rispettate e non vorrei che, come qualche volta è capitato, fosse solo porta a porta a rispettarle. Perché non si capisce però perché la politica tema sempre sotto elezioni, no? C'è questa fibrillazione. Ma perché sotto elezioni certe volte si fanno, se vi ricordate insomma la campagna elettorale del 2001 e quello che fece il mio amico Michele Santoro nel 2001, guardate anche le campagne elettorali negli altri paesi e fate il confronto. Allora io capisco certi timori, ma non capisco e non condivido che certi timori possano portare alla soppressione delle trasmissioni. Senta, a proposito di trasmissione, a proposito del suo porta a porta, ci racconta cosa è successo con Vendola, che l'ha definita la sua trasmissione ignobile? Che vuole che ne sappia, che cosa bisogna chiederla a Vendola. E a Vendola, quando ci siamo incontrati per caso in un ristorante al Festival del Cinema di Venezia, mi è venuto incontro, è stato molto cordiale e mi ha detto che sarebbe venuto in trasmissione. Dopodiché non solo ha rifiutato ogni invito, ma ha detto che è una trasmissione ignobile, cosa che mi dipende dai giudizi, naturalmente ognuno è libero di dire di porta a porta e di qualunque altra trasmissione quello che crede, ma detto da una persona che si candida in maniera ormai chiara alla leadership del paese mi pare molto preoccupante. Bisogna sempre pensare che cosa sarebbe successo al contrario, cioè, ecco, se l'avesse detto Berlusconi, cioè, per esempio, o qualcun altro dei suoi, insomma, ecco. Senta, non è un buon momento per la politica. Qualcuno ha già evocato le monetine dell'Hotel Raphael ieri quando è successa questa cosa. Poi una rissa. Quando si lanciano monetine si evocano monetine. Sì, no, ma è chiaro. Però voglio dire, cioè il momento qual è? Anche oggi Stefano Folli sul Sole dice: ma si può andare avanti fino al 2013 con questa rissa permanente? Assolutamente no. E quindi? Quindi è bene che si diano tutti una calmata, non c'è dubbio, insomma. Credo che il capo dello Stato abbia detto delle parole molto sensate, mi auguro che ci sia una resipiscenza da parte di tutti. Senta, tra poco è il 6 aprile, da Aquilano, insomma, è la ricorrenza del terremoto. Lei è soddisfatto di ciò che il governo ha fatto? Dunque, il governo ha gestito a suo tempo bene l'emergenza, poi c'è stato un momento in cui sembrava che i soldi non ci fossero. Invece ho dovuto scoprire che purtroppo adesso i soldi ci sono e non ci si mette d'accordo, sono 2 miliardi e mezzo disponibili e fino a qualche giorno fa c'era ancora un braccio di ferro tra, diciamo, infatti tecnici, ma comunque per ridurre in briciole, tra il sindaco, il commissario presidente della regione e il capo dell'unità di missione sui progetti di ricostruzione del centro storico, cioè tutte le case meno danneggiate, quelle catalogate A, B e C, su quello si sta andando avanti. La cosa più grave è il centro storico, quindi le case E, cioè le case distrutte o semidistrutte. Finalmente mi ha detto che Gianni Letta, che è abruzzese come me di Avezzano, io sono dell'Aquila e lui di Avezzano, sabato scorso ha presieduto finalmente una riunione costruttiva e mi pare, mi dicono che si siano messi d'accordo, quindi adesso si dovrebbe procedere. Perché lì ci sono delle paure, insomma, la regione dice al sindaco datemi dei piani di ricostruzione. Il sindaco è molto timoroso su che cosa fare, insomma, di fatto si è paralizzati. Adesso spero che sia vero quello che mi dicono tutti, per la verità, che adesso dovrebbero procedere. Tra l'altro si è pure dimesso il sindaco, poi rientrate le dimissioni. Beh sì, esattamente, perché poi c'era lì un problema di bilancio, perché l'Aquila, il problema sono le case, ma le case si ricostruiranno, il problema è che il tessuto economico, il tessuto sociale rischia di saltare, e quindi questo è un problema molto serio. Senta, le faccio dare qualche giudizio sui colleghi, così sparliamo. No, domanda di riserva. Che ne pensa del fatto che Mentana sia stato eletto miglior TG dell'anno? Mi pare una eccellente scelta. Assolutamente, tra l'altro con Mentana ci troveremo al premio Seven Sun, perché Mentana è stato premiato, come è stato designato come miglior giornalista della televisione, Antonio Padellaro, che ha fatto Il Fatto Quotidiano, un giornale di successo, come miglior appunto produttore di quotidiani, e io grazie a Dio ho avuto il premio Seven Sun alla carriera, quindi ci torneremo tutte e tre a Seven Sun. E invece di Ferrara, le piace? Va bene? Beh sì. No, beh, Ferrara è molto emozionante. Ferrara. Secondo me è il numero uno. È il numero uno. Assolutamente. Poi certe volte pure lui esagera, ma insomma. Ci sa dire se Masi, direttore generale della RAI, è in scadenza, va via, rimane? Vuole che le dia il numero di telefono? No, non mi risponde. A me non rispondo. Senta, io sono al 20° direttore generale della mia vita e ogni tanto ho sentito dire che se ne vanno. Ecco, io... Le notizie che un direttore generale se ne va preferisco a leggerla sull'Ansa. Sull'Ansa. Sì, esattamente. Ancora due in quel momento mi pare ancora due domande flash. La prima, visto che ieri Berlusconi è andato a Lampedusa, ha promesso tante cose, in 48 ore, 60 ore via da Lampedusa, ha promesso anche altre cose, qualcun altro dice, ma è sembrato un po' Silvio la qualunque, per esempio, titolo oggi Repubblica, no? Il casinò. Giornale notoriamente amico del presidente. Notoriamente amico di Berlusconi, sì, certo. Sì. Però voglio dire, è stata una promessa, è stato anche un po' uno show, secondo lei. Anche i giornali del Che pensi mi titolano il giornale. La differenza libero, tra una promessa e uno show è che gli show finiscono, le promesse per essere credibili vanno mantenute. Vedremo. A proposito di promesse, il famoso contratto con gli italiani l'ha mantenuto, secondo lei, quello che ha firmato da lei? Le opere pubbliche, che sono la cosa, diciamo, più importante, la famosa lavagnetta, eccetera, no. Ci sono adesso credo tutti quanti dicono che ci sono dei procedimenti burocratici molto complessi, ma questo è molto preoccupante, perché in Italia costruire una qualunque cosa è molto molto molto molto difficile. E questo, ma ci sono resistenze della burocrazia, ci sono resistenze delle corporazioni, ci sono resistenze dappertutto, e questo è un grosso problema. Io faccio due rimproveri a Berlusconi: la lentezza, poi lui dice naturalmente che non gliel'hanno fatte fare, che la burocrazia si è messa di mezzo, lo dice anche Matteoli, eccetera, nelle grandi opere, e il problema della spesa pubblica, che è altra cosa che in Italia è difficilmente arginabile, sia che la si veda da destra, sia che la si questo veda da decenni, da sempre, se non di più. Infine, è vero che ha rifiutato di condurre il Festival di Sanremo, Bruno Vespa? Dunque, quando Masi me lo disse, io gli risposi che facevo un altro mestiere. Quindi ha rifiutato. Sì, sarebbe stata una cosa del tutto impropria. Vabbè, magari col prossimo direttore generale della RAI. Grazie Bruno Vespa per essere stato con grazie noi. Grazie a voi e grazie agli ascoltatori. Buona giornata ovviamente, ci fermiamo per la pubblicità e il meteo, e poi parliamo del rimpasto di governo, un tema che ogni giorno affiora sui giornali, si dice accontentare i responsabili. Ci vogliono più sottosegretari, ci vuole più un allargamento di compagine di governo. Secondo voi vi aspettate, ci sarà questo allargamento della compagine di governo? Questo vi chiediamo, certo, poi l'attualità incombe, le monetine, la rissa, insomma, andremo un po' a capire anche con due esponenti dei responsabili, un cronista, il cronista del Messaggero che segue la politica, Mario Aiello, anche qual è il clima, se si può parlare di impasto di governo in questa situazione in cui volano i vaffa come fioccano nelle espole, direbbe Aldo Biscardi. Dopo la pubblicità e il meteo, votate il sondaggio 800 24 0024 se volete intervenire in diretta. 24 mattino. Eccoci qua, le 8:32 minuti. Allora parliamo dell'attualità politica, dell'allargamento della compagine di governo di cui si parla quotidianamente. Certo, anche se volete diremo qualcosa di quello che è successo la giornata di ieri, ma certo il tema è il nostro sondaggio e vi aspettate un allargamento della compagine di governo. Questo vi chiediamo. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. E devo dire che il 76% degli ascoltatori dice sì. Ce l'aspettiamo. D'altronde sui giornali è raccontata così. Ieri, per esempio, Mario Aiello sul Messaggero. Aiello che saluto. Buongiorno Mario, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Scrivevi tu che è pronto forse addirittura il blitz per il Consiglio dei Ministri straordinario di oggi, in cui si dovrebbe parlare di Lampedusa. Pronte 11 sottosegretari in più. Non lo so se quello che è successo ieri possa aver cambiato le carte in tavola, ma... Forse. Io credo di sì, sì forse. Che abbia, diciamo, che abbia provocato uno stop a questo allargamento, ma se lo ha provocato sarà uno stop di breve momento, perché sì. Perché la cosa è andata così: il ministro La Russa, quello che ieri diciamo ha dato in escandescenze, sì. e oggi sta su tutte le prime pagine dei giornali, è stato incaricato da Berlusconi di fare un giro, una verifica in tutti i ministeri su quanti sottosegretari servono, sì, a ognuno di essi. A quasi tutti servono i sottosegretari, perché essendo la maggioranza con i numeri molto risicati alla Camera, i ministri e gli attuali sottosegretari devono per forza stare lì per ogni votazione, certo, se no il governo va sotto, e tutto ciò a detrimento della loro così normale attività ministeriale. Cioè, addirittura rimpolpare le tue. Certo, no? Calderoli addirittura si lamentava nei giorni scorsi a dire che ha dovuto fare 5 commissioni da ministro perché non c'ho un sottosegretario con delega e dovevo fare, non so, 5-6 commissioni a cui doveva essere presente il governo, partecipare a tutte. Ma comunque Mario, ci stanno ascoltando, gli voglio salutare due esponenti del gruppo Iniziativa Responsabile, i cosiddetti responsabili. Intanto il capogruppo, l'onorevole Luciano Sardelli, buongiorno, ben ritrovato anche a lei. A voi. Saluto anche l'onorevole Katia Polidori, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, due dei responsabili, Luciano Sardelli, tra l'altro, professione, allora, a parte politico, leggevo psicoterapeuta, in un'intervista a Repubblica lei ha detto che, insomma, fa anche, perché sorride già, fa un po', raccoglie tutte le speranze, tutti i sogni, le ambizioni dei responsabili a caccia di che cosa? Di un posto all'interno del governo, cerca di tranquillizzarli. Innanzitutto l'ambizione è un fatto positivo, di un bambino che non ha ambizione, si dice una persona apatica, senza ambizioni, quindi l'ambizione è una molla importante nella vita di tutti. E poi per i politici, cioè, l'ambizione cos'è? Rappresentare i propri territori e possibilmente avere ruoli di governo, quindi tutto questo scandalo su un'attenzione di alcuni di noi per un ruolo di governo, insomma, voglio dire, è strumentale, propagandistico, cioè è normale. Che è umana, l'ambizione è umana. No, no. Per la politica ancora di più, cioè, voglio dire, se dobbiamo parlare di politica, poi se uno deve stare lì senza nessun progetto, senza nessun desiderio di valorizzare il territorio e anche di crescere nell'esperienza di governo, di responsabilità, voglio dire, non è certo utile. Ma quanti vogliono? Cioè, è vero che lei è il collettore un po' di tutti i sogni, le ambizioni, le frustrazioni anche? No, vabbè, di alcun... noi, cioè, voglio dire, c'è una, noi siamo un bel gruppo, abbiamo dato una bella forza alla maggioranza, molti di noi vengono da un'esperienza di centro-sinistra, sono 12 rispetto a 35 che dal centro-destra sono fuggiti dal centro-sinistra, fuggendo pure da responsabilità di governo. E quindi noi, voglio dire, penso con 4 ruoli di governo risolveremo, daremo il nostro contributo e andremo avanti su un programma che presenterò. Mi scusi, 3-4 ruoli completi o 3-4 ruoli responsabili? No, bisogna completare proprio, ne mancano 11 per il sottosegretario e viceministro. E i responsabili potrebbero averne 3 o 4, oltre a Saverio Romano che è diventato ministro. Oltre a Saverio Romano ci sono anche delle competenze specifiche di grande valore, imprenditori, professionisti, cioè, uomini di cultura, giornalisti, insomma tutti possono dare un contributo. 3 o 4, lei dice, 3 o 4 potrebbero essere una giusta. Voglio dire, non c'è drammatizzazione. Ma per carità, cioè, voglio dire, poi, l'ha detto lei, richiesta legittima, voglio dire, politica. Assolutamente, poi fra l'altro cioè, il gruppo sta crescendo, la maggioranza si sta ampliando, era di 3 deputati a dicembre, oggi a tutte le votazioni abbiamo 15, 16 voti, nelle prossime settimane arriveremo a 20, 25, quindi voglio dire, c'è un rafforzamento obiettivo, la maggioranza è coesa, è compatta e quindi il voto conta in questi momenti soprattutto. Voglio sentire anche l'onorevole Katia Polidori. Intanto, onorevole Polidori, ci può tranquillizzare, come va la situazione? Perché lei, fuoriuscita nei giorni della fiducia il 14 dicembre dai Finiani, insomma, ci furono anche credo delle minacce. Si è placata, spero, la situazione, la sua situazione personale? Ma sì, credo, immagino insomma che si trattasse di un momento molto particolare dove qualcuno aveva sperato fortemente che il governo andasse a casa e ignorando le mie dichiarazioni che ormai erano partite già addirittura dal 30 di luglio, dove io ed altri obiettivamente dichiaravamo sì una corrente interna, ma mai contro il governo dove siamo stati eletti, perché all'interno del responsabile, come diceva il capogruppo, ci sono storie completamente diverse. Io vengo dal PDL, Berlusconi presidente, per cui passato quel periodo devo dire insomma che si sta tutto ricomponendo in una normale logica politica. Questo sì, lei chiede un posto nel governo o spera, ambisce? Guardi, ringrazio perché mi dà veramente una grande occasione di chiarimento. Assolutamente no, io voterò assolutamente a favore e con il mio governo indipendentemente dal posto di governo, questo sia chiaro, e nessuno di noi lavorano su una logica del do o des come hanno voluto far credere i giornali in questi giorni, tutt'altro, c'è un programma, si sta lavorando su un progetto politico e se poi all'interno del nostro gruppo ci sono dei curriculum interessanti per ricoprire dei ruoli che sono assolutamente necessari, io vorrei aprire una parentesi e aggiungere qualcosa a quello che ha detto prima il dottor Aiello. Sì. Le faccio un esempio, la scorsa settimana, più o meno 10 giorni fa, la Commissione Attività Produttive sul nucleare, quindi un argomento attualissimo e particolarmente sensibile, importante, chiaro, rimase bloccata perché il ministro Romani era a Bruxelles per tutto quello che stava succedendo e il sottosegretario Saglia era malato in maniera veramente invalidante. La sinistra ha fatto delle richieste pesanti, a questo punto il sottosegretario ha preso un aereo da Brescia, è arrivato la notte, abbiamo fatto la notturna con lui in condizioni disastrose. Non ci sono sottosegretari, le commissioni stanno ferme perché non c'è modo di essere rappresentati dal governo. E quindi no, questo è un problema di quello che si diceva di maggioranza che deve reggere. Ma Mario Aiello, io vorrei chiedere due cose. Il primo è se l'approccio, anche ieri, di cui scrivevi ieri sul Messaggero, cioè ci costeranno 2 milioni di euro in più, è un approccio giusto, c'è anche un po' di populismo in questo, te lo chiedo francamente. E la seconda posizione è se è legittimo, come dice Sardelli, come dice l'onorevole Polidori, insomma, l'ambizione politica avere un posto di governo, cioè voglio dire che male c'è, oppure se dobbiamo dire come scrivono molti, come dico, sono dei venduti che si sono venduti per un posto, per uno strapuntino. Venduti, prima di dire che si sono venduti bisogna trovare diciamo dei riscontri per poterlo dire, in certi casi in passato questi riscontri si sono trovati, non so se vi ricordate quei due leghisti che si opposero al ribaltone, uno di due si chiamava Gabbana, sì, certo, sì. Nomen sì. E poi dopo ha avuto una consulenza per i gruppi, per il gruppo parlamentare berlusconiano, eccetera. In questo caso ancora dei riscontri non li abbiamo, a meno che non possiamo considerare un riscontro, per esempio, l'autobiografia che Razzi, uno dei responsabili, pubblicherà per Mondadori, cioè per Berlusconi, insomma, però siamo ancora così a livello. Vabbè, non una gran pro, non reggerebbe in un tribunale. non reggerebbe in un tribunale. Per quanto riguarda l'ambizione politica, certo, l'ambizione è una cosa sana, se non voglio dire in modica quantità, ma se vissuta così con una certa misura e con e senza esagerazioni, e le quali invece ci sono, perché ieri alla Camera comunque quando io parlo con i vari responsabili non fanno che dirmi: ah, io merito, invece il mio collega no, quello va, è l'accusa che si fanno continuamente. Dai, dici qualcosa. Quello tratta personalmente con Berlusconi mentre io no, o facciamo un gioco di squadra tutti quanti, oppure i personalismi non vanno. Ecco, dici qualcosa, Pionati non fa che dire di Romano questo. Sì, sì. Vabbè, insomma, quindi, i posti, quindi, d'altronde, insomma, sono minori rispetto a quelli. I posti sono minori rispetto al numero delle persone che li vorrebbero. Sì, perché diceva giustamente Sardelli, per me, i posti dei responsabili poi saranno quelli che dice lui, tre o quattro. Sì, saranno quattro. Per quanto riguarda i costi di questo allargamento, c'è da dire, io sono stato il primo anche a dirlo in questa trasmissione, che l'allargamento serve per certi aspetti, per rendere più funzionale l'attività di governo, ma è anche vero che ci stanno dei ministeri. E quello di Calderoli che citavamo prima, onestamente, è uno di questi, che sono dei ministeri un po' artificiali, ecco, diciamo la verità. Mettere due sottosegretari in un ministero artificiale è un costo evitabile. Poi non sono, ecco, questo proprio va detto contro la demagogia, non sono dei costi terribili, sì. nel senso che un sottosegretario, io ho fatto i calcoli, ci costo è messo 91.000 euro al mese, no, 91. Un sottosegretario, compresi i suoi collaboratori, sì. Costa 8.300 euro, sì, ma non sono 8.300 euro che lui si mette in tasca personalmente. Ma tu infatti hai fatto calcoli, 11 nuovi sottosegretari costano al mese 91.300 euro, li leggo da ieri dal Messaggero, in totale 2.174.000 euro l'anno, ecco, non è tanto per le casse dello Stato, insomma 2 milioni. No, non è, ecco, io quello che sto dicendo, cioè, non è tanto per le casse dello Stato, però è anche vero che in questi 2 milioni di euro, ripeto, ci sta una quota veramente inutile, sì, per dei ministeri assolutamente inventati. Ricordiamo che abbiamo anche un ministero, per esempio quello che doveva essere di Brancher, sì, che poi dopo, vi ricordate, tutta, sì, la vicenda, certo, che si è dovuto rimettere, ricoperto. Ecco, cioè, non vorrei, ecco, e lancio proprio un appello da Radio 24, ecco, non vorrei che adesso si resuscitassero pure una cosa, un dicastero come quello completamente inutile per dare dei posti. Staremo a vedere dopo le informazioni sul traffico, vedremo anche qualche ascoltatore e continueremo il nostro dibattito. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Detto che allora il 76% di chi vota dice sì, ci aspettiamo un allargamento della compagine di governo, voglio sentire qualche ascoltatore. Carmelo da Cosenza, buongiorno. Buongiorno a lei e dica. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, faccio parte del 76%. Sì. Volevo dire due piccole cose, insomma, e anche chiedere aiuto alla sua competenza. Se non sbaglio, E il secondo governo Prodi determinò un grande allargamento della maggioranza puntellare. Cioè, la scorsa legislatura, ecco. Abbiamo sforato 102, 103 tra. Ecco, quindi credo che sia fisiologico. La considerazione però che vorrei fare è quella che sono ormai, credo, una decina d'anni nelle finanziarie e adesso da 2 anni quella, come si dice, la legge di bilancio, insomma, la finanziaria, vabbè, sì. Fanno un po' prima che diciamo così gli enti territoriali, ma anche gli altri enti pubblici non territoriali vengono ridotti a stecchetto. Proprio le spese della politica hanno messo un tetto sul numero di qualsiasi cosa. A livello parlamentare, quindi, invece non c'è nulla. Opportuno che lo facessero, ma per lei. Anche questo, però, bisogna smentirlo. Cioè, guadagnano tanto, per carità, i parlamentari. Però è stato ridotto lo stipendio. Adesso non so di quanto, sicuramente andrebbe ridotto come prebenda di più. Però è stato messo un tetto ed è stato ridotta, credo, del 10% l'indennità nell'ultima legislatura. Giovanni da Mantova, buongiorno. Giovanni. Io la sento lontanissimo, non è da Mantova, è non so, dalla Luna. Dov'è lei? Giovanni? Niente, è caduto. Claudio da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io volevo solo intervenire sul Mila sentendo i parlamentari prima, dicendo che la classe, diciamo, che rusca tutti i giorni, che gira per il mondo in aereo, la media classe che non ha nessuna prebenda perché non si presenta ad avere qualche cadreghino, ha un attimino, gli si accappona la pelle sentire questa gente che pensano alla sana ambizione. La sana ambizione è quando qualcosa si guadagna col duro lavoro dietro, ma questi 650 parlamentari, quindi metto dentro tutti, non c'è una questione di frangia, che sono stati eletti, nominati da chi era in capolista. Quale lavoro hanno fatto? Quale ambizione di cambiare casacca da una parte all'altra? Cioè, La sua critica io la posso capire, un po' di sfogo, però un po' di populismo c'è in questo, Claudio, no? Non è un populismo, perché il politico cosa fa? Fa il politico, cioè. Questa gente qui pensa che le persone abbiano la memoria corta, pensano che credono, si presentano, allora non sanno dire 3 parole di italiano corretto in croce. Adesso. Ecco, no. Ascolti, c'è gente che guadagna molto di meno, perché lei dice che hanno diminuito gli stipendi, ma lo sa 20.000 euro lordi o netti? Ma chi li guadagna in un'azienda privata? Ma certo, io ho detto che sono milioni di euro e c'ha 500 persone. Scusi Claudio, sotto. Io ho detto che guadagnano tantissimo, ma rispondendo a chi dice i parlamentari non si tagliano mai lo stipendio, per correttezza e informazione, si sono tagliati di recente del 10% lo stipendio. È giusto per essere corretti. Fare le pulci a delle frasi italiane. Non è voler fare le pulci. È la realtà. Guardi, la che io la penso come lei, guadagnano troppo, glielo dico in qualsiasi lingua, lei crede. Non è solo il guadagno, producessero qualcosa. Va bene, producono anche poco, magari non solo per colpa loro, ma anche perché il Parlamento è messo in queste condizioni. Onorevole Sardelli, qua l'ambizione, la legittima ambizione a cui lei faceva riferimento, anche da psicoterapeuta, un po' a tutti gli italiani, facendo riferimento al politico, pare non si debba applicare allo stesso modo. O insomma, viene imputata una colpa, insomma, a questa ambizione. No, vabbè, purtroppo c'è molta propaganda e molto populismo su queste cose, e la democrazia funziona con degli eletti, in questo caso denominati, che rappresentano i territori e che portano avanti gli interessi collettivi, mediano fra gli interessi contrapposti e portano avanti una soluzione complessiva, collettiva. Questa è la politica, cioè non c'è un metodo migliore di amministrare i popoli se non la democrazia, cioè chi ne propone altri me li faccia sapere. E poi, per quanto riguarda i costi, cioè io faccio un discorso mio personale, io sono 15 anni che ho vari ruoli nei governi regionali e territoriali, cioè se i soldi uno li prende e li mette in tasca sono tantissimi, se uno deve fare la politica, cioè, non bastano mai. perché se tu devi avere una segreteria organizzata, se tu devi andare sul territorio, se devi aiutare le associazioni, se devi essere presente con un minimo di organizzazione, un addetto stampa, cioè le risorse non bastano mai. La prima trasparenza su quale che ci vorrebbe sarebbe quella di una valutazione obiettiva del reddito di uno quando entra in politica, man mano che sta, non di quello che guadagna, di quello che ha, cioè, vuol dire, perché se c'è chi si è arricchito, e forse sono tanti, c'è anche chi non si è arricchito, forse si è impoverito, perché c'è un paradosso, però la politica può essere anche, voglio dire, un'occasione di notevoli spese e impegni. Onorevole, come al solito, cioè nessuno impone a nessun altro di fare, se uno se lo sceglie. Sono condanne collettive che poi non corrispondono, insomma. No, ma questo sì, però non vorrei passare poi dalla parte, sennò sembra che sono dalla parte di chi difende lo stipendio alto dei politici. Uno se la sceglie la politica, nessuno gliela impone, nemmeno tantomeno il dottore. Vorrei chiedere all'onorevole Polidori, che ne pensa? Lei era a Camera ieri quando è successo il putiferio? Sì, ma nel momento proprio esatto, in quei due secondi, l'ho visto a metà. No, stavo mandando un fax nella porta dietro, immediatamente dietro, sono entrata e ho perso proprio l'attimo della che ne pensa? Vabbè, l'ha visto. Che ne pensa di quello che ha fatto Fini? Cioè, nel senso, lo chiedo a lei, perché insomma Fini lo conosce, è stata vicina a Fini fino a poco fa. Insomma, la Russa l'ha mandato affa, questo è abbastanza chiaro. Però oggi Libero titola, no, il giornale, credo, Fini non è più, no, Libero Fini perde la testa. Cioè Fini perde la testa, insomma. Ma io credo che ieri ci sia stato un momento di nervosismo collettivo da entrambe le parti e da entrambi gli schieramenti, e si è visto, perché quando ho aperto la porta io, ho visto una grande confusione, obiettivamente e oggettivamente, che dispiace, che fa male, perché chi è lì dentro riesce magari a capire, riesce a capire il momento, riesce da fuori, dai pezzetti che mandano la televisione, stiamo dando un'immagine pessima all'Italia, veramente vergognosa. Quando ho sentito prima, guardi, il radioascoltatore che l'ha chiamata al telefono e che dice queste cose, è vero che sono farcito da populismo, ma ahimè, più si gira e più se ne sentono, e peraltro non sono vere, ma per un errore della politica di comunicare correttamente, non per un errore della gente di recepire o di farcire le cose di populismo. Noi non siamo in grado di comunicare correttamente. Io sono in prima legislatura e, nonostante io ero il presidente nazionale dei giovani imprenditori, per cui ero molto vicino comunque alla politica, la pensavo esattamente nello stesso modo, cioè mi rendo conto che la politica non sa comunicare, questo è un errore grossissimo, e quindi non si distingue chi lavora, non si distingue appunto chi spende molto per il proprio territorio, non si distingue il tutto da magari qualche persona che oggettivamente, come ha detto prima il capogruppo, ha fatto scelte di vita completamente diverse, non molto oneste, che poi però, devo dire la verità, raramente sono state poi premiate. Secondo me alla lunga chi lavora onestamente, si impegna molto, viene fuori. Allora, staremo a vedere intanto su questo allargamento. Io ringrazio tutti, l'onorevole Katia Polidori, l'onorevole Luciano Sardelli dei responsabili e Mario Aiello del Messaggero. Ci fermiamo qui con Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Bescapè al solito in regia. Come dire, andate anche sulla nostra pagina Facebook 24 mattino, metteremo altre foto, abbiamo trovato spettacolare dei ribelli, le metteremo. E che dire, do la linea a Oscar Giannino, noi ci troviamo domattina alle 7:20.